Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi cambiamo un po' la nostra scaletta. Il confettino. Oggi un lungo confettino dedicato alla fiera internazionale del libro per ragazzi che si apre lunedì 19 a Bologna e si svolgerà poi fino al 22. Questo è un appuntamento molto importante, forse il più importante al mondo. Non è una mostra per i visitatori, ma soltanto per i professionisti e gli operatori, quindi gli editori, i traduttori, i venditori di diritti, ma anche i librai, gli insegnanti, i bibliotecari. E comunque rappresenta un'ottima occasione per fare il punto, visto che appunto l'appuntamento è molto importante ed è giunto alla 49esima edizione. Quest'anno si pensa di superare anche i record degli anni passati. L'anno scorso infatti ci furono 1200 espositori che provenivano da tutto il mondo, con 5000 operatori stranieri e 66 paesi presenti. La Fiera del Libro per Ragazzi riguarda un settore che è in grande vivacità. Ci si lamenta tanto del fatto che in Italia si legga poco, però il settore del libro per ragazzi viceversa dimostra una sua grande vivacità e infatti i bambini e i ragazzi, quelli compresi tra i 6 e i 17 anni, leggono normalmente di più rispetto alla media della popolazione italiana, che consuma libri per circa il 46,8%, mentre i ragazzi salgono al 58,4%. La lettura per molti di questi ragazzi e bambini rimane tuttavia un'attività occasionale, anche se il mercato dei libri per loro sta crescendo più di quanto cresca quello per gli adulti. Cresce infatti di oltre il 5%, mentre la crescita del libro per adulti è stata soltanto del 3,3%. È un'occasione, quella di Bologna, molto importante anche per la vendita dei diritti e infatti questo è un settore che sta assicurando grande successo al nostro paese, che ha aumentato negli ultimi anni notevolmente l'esportazione dei propri titoli. È anche significativo il fatto che molti titoli, a differenza di quanto succede spesso per i libri per gli adulti, rimanga a lungo in catalogo. Non si vendono soltanto novità, ma si vendono anche libri presenti da diversi mesi. Infatti nel 2010 sono state pubblicate 1330 novità, ma la vendita dei diritti ha riguardato 1607 libri e sono stati ristampati 1552 libri. Quindi un settore, come si vede, che si basa molto anche sui long seller, sui sempreverdi. Ma su questo settore sentiamo adesso un'esperta, Carla Poesio. Buongiorno a Carla Poesio. Buongiorno a lei. Carla Poesio, lei è una delle maggiori esperte di letteratura per l'infanzia. Quali sono le tendenze che emergono negli ultimi mesi? Che cosa ci si deve aspettare a questa Fiera di Bologna? Dunque, la Fiera di Bologna, come lei sa, è un pozzo senza fondo, quindi si va da zero anni a libri per zero anni fino a quelli per adulti. Anzi, a proposito degli adulti, altro che da bambini di zero anni ai giovani adulti, si dice da prima della nascita, perché proprio uno dei libri che avrà un successo in fiera è un saggio dedicato agli adulti ed è Libro Fammi Grande, casa editrice Liber, dove il percorso di lettura lo si fa cominciare proprio nel ventre della mamma. La mamma che canta, la mamma che dice una filastrocca, ci sono dei legami stretti che avranno sempre un'incidenza nel futuro. E faccia questo sentire anche questo Libro Fammi Grande della casa Liber, penso farà piacere anche a molte mamme. Dunque, per la preschool, cioè bambini da 0 a 3 anni, prima ancora di andare alla scuola materna, le case editrici insistono molto naturalmente sull'illustrazione, ma sulla creazione di piccoli personaggi che rimangono impressi e che ritornano in altri libri a cui il bambino si affeziona. Su questa linea si tiene la casa Panini, che crea una specie di folletto strambo, si chiama Turlu Tutù. Si muove anche la casa di Agostini, che crea anche lei un suo piccolo personaggio che ritorna, si chiama Pocoyo. Ci insiste ancora la Nord-Sud sui Puffi di Peio, con libri per piccolissimi. I Puffi vanno un po' per tutte le età dei bambini e ha avuto molto successo l'ultimo film della Sony Pictures sui Puffi e ne sta per uscire un altro, quindi saranno tutti personaggi che attireranno. Intanto poi, speriamo che le mamme ascoltino anche questa trasmissione per fare... In fiera, mi dicono, anzi negli eventi intorno alla fiera ci sono molte mamme e devo dire che i giovani genitori di oggi stanno molto attenti anche all'argomento lettura. Questo devo dirlo come omaggio alla nuova generazione. Ecco, il settore è un settore che funziona, questo dei libri per bambini e per ragazzi, però i dati dicono che molti bambini leggono soltanto un libro al mese. Ecco, allora io rimando allo squillo d'allarme che volevo darle in fondo alla fiera, un libro di Roberto Denti intitolato I bambini leggono. Non è una frase tanto per fare, è una frase che vale quanto un'attenzione a lettere cubitali, perché lui fa capire come la disposizione a leggere c'è in tutti i bambini e sono gli adulti che non la incoraggiano, che la fanno morire, che la distruggono a volte, perché il bambino, se lo sai pilotare tra scelte a sua volontà, legge e legge volentieri. E poi una cosa vorrei dirle: il fatto che ogni anno crescono le case editrici che espongono in fiera non le fa pensare che evidentemente i libri si vendono, se no uno non si mette a fare libri per tanto per dire faccio un'opera buona, insomma. Quindi c'è una vendita che, se si sta alle statistiche, era un po' in declino nel 2009, ha ripreso nel 2010 e stiamo tutti attendendo i risultati del 2011. In questo settore che peso hanno i classici? Dunque, i classici, c'è un ritorno notevole, i classici trattato come le dico. Alcune delle case editrici, per esempio la Giunti, affidano una nuova traduzione più consona magari al linguaggio moderno a penne d'autore, non a un traduttore meno noto, ma veramente a penne d'autore. Questa è la caratteristica della casa Giunti. La casa PM li ripubblica con prefazioni, anche queste di prefazioni d'autore. Diversi anni fa c'erano le postfazioni di Faeti molto note. Poi c'è una casa come la nuova Principi e Principi che addirittura le correda con meravigliose illustrazioni, e una delle grosse novità di quest'anno è un Roberto Innocenti che illustra un'isola del tesoro, e credo che il suo John Silver e il suo Jim Hawkins rimarranno a lungo nella mente di chi legge. Ecco, qual è il rapporto tra il nostro paese e gli altri paesi? Noi importiamo, però siamo grandi esportatori anche di dunque, libri. Dunque, noi fino a, diciamo, 4 anni fa eravamo molto dipendenti, poi invece è aumentata la ricerca intelligente da parte degli editori. In questa fiera c'è un numero notevole di editori già noti e cari al pubblico che ritornano con novità molto interessanti, e poi una ricerca bene condotta di giovani autori che veramente abbondano nel mercato e sono ottime penne. Le dirò, addirittura c'è un gruppo della casa EL che si è soprannominato gli immergenti, non gli emergenti, lavorano per più di una casa editrice, sono giovani che si dichiarano realisti ma quando occorre sanno essere fantastici e sono veramente ottime penne. Naturalmente abbiamo anche molte traduzioni, anche molti cari autori stranieri, ce n'è per esempio uno che da noi è familiare, Morpurgo, con un romanzo, Cavalli da guerra, da cui è stato tratto recentemente un buon film, e se posso citare me stessa, mi ci sono voluti 3 anni per avere un biglietto per vedere la trasposizione in teatro, anche questa è un'ottima trasposizione, questo per dirgli che la materia trattata da Morpurgo è una materia interessante. In questo caso erano i cavalli che hanno partecipato alla Grande Guerra, le grandi perdite dei cavalli, la poca sopravvivenza e poi un intreccio sentimentale che si svolge nel centro. A suo parere, come si attrezzano gli editori per gestire un mercato in cui la virtualità conta sempre di più? Questi bambini sono sempre più abituati evidentemente ad avere a che fare con videogiochi, con apparecchiature, ecco, che approccio hanno con la carta? Però devo dire, sono anche ragazzi che passano davanti alla televisione e ne acchiappano brandelli che poi non sanno molto gestire bene, tant'è vero che una delle novità di quest'anno è un'abbondanza di libri, chiamiamoli di divulgazione, ma è una brutta parola, diciamo non fiction, che sanno essere più divertenti e più interessanti di una narrativa. Le faccio un esempio, c'è un libro questo edito dalla Giunti anche La legalità raccontata ai ragazzi, scritto da un ex prefetto molto bravo che sa avere un linguaggio colloquiale e che ha scelto come tema la lotta contro la criminalità e fa partecipi i ragazzi di sue esperienze indicando come ha fatto le indagini, come hanno ricavato degli indizi, come si può sottrarre una vittima di un rapimento ai rapinatori, cioè comunicando quello che è il gusto per l'indagine che non è mai morto. Se lei guarda uno dei personaggi che anche in questa fiera è sempre a galla è Sherlock Holmes. Perché? Perché c'è questo gusto della scoperta, del metodo, del successo che va forte e anche cominciò un editore molto bravo, Donzelli, nel 2009 con un bellissimo Sherlock Holmes giovane e l'insistenza è proprio sulla bravura di questo detective quando era ancora ragazzo. Senti, l'ultima domanda sulle politiche di prezzo, non pensa che molti editori un po' approfittano del fatto che questo mercato tiri e quindi impongono dei prezzi forse superiori a quello che... Le devo dire che mai come in questo mercato ho visto sulle copertine diverse volte 9,90, cioè prezzi abbassati rispetto al solito. C'è, e questo me l'hanno confermato degli editori, una tendenza a abbassare il prezzo. Meno male, perché ogni tanto si vedono dei Ci prezzi vuole. Abbastanza incomprensibili. Grazie a Carla Prego, Poesio, buona domenica. E un'altra esperta, Giorgia Grilli, ha appena pubblicato Libri nella giungla, orientarsi nell'editoria per ragazzi, pubblicato da Carocci, 160 pagine, vuole appunto offrire una guida per scegliere bene. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba, torniamo ai libri per adulti e in particolare ai libri che parlano di arte. Lo facciamo con un grande del Novecento, Attilio Bertolucci, che è stato un grande poeta, critico d'arte, di cui Rizzoli pubblica Lezioni d'arte, 288 pagine, 35 euro. Si tratta di vere e proprie brevissime lezioni di arte che Bertolucci pubblicò sulla rivista dell'ENI che aveva voluto Enrico Mattei, Il gatto selvatico, che lo stesso Bertolucci aveva diretto fin dalla fondazione. Si parte da Cimabue fino agli sviluppi dell'arte contemporanea secondo un percorso critico e cronologico che ha una forte coerenza e che naturalmente esprime i gusti, la cultura e le preferenze di Bertolucci. I capolavori sono raggruppati in vari capitoli che affrontano vari aspetti della critica d'arte, dalla vera e propria storia della pittura al volto dell'uomo, alla natura morta, agli ismi dell'arte contemporanea e naturalmente alla pittura dell'età industriale. Come osserva la curatrice del volume, Gabriella Pallibaroni, Bertolucci mostra i nodi cruciali, le connessioni e le distanze, disegna una mappa non dettagliata ma certamente esauriente dei tempi e delle correnti per giungere ogni volta all'artista esemplarmente scelto e all'opera singola che ne dimostri l'altezza e l'originalità. E allora dal libro voglio proporvi alcune righe dedicate a un artista di cui si parla in una grande mostra che si è aperta a Vercelli, Miró, Mondrian, Calder, I giganti dell'avanguardia e la collezione Guggenheim. La mostra sarà aperta fino al 12 giugno, il catalogo è curato da Luca Massimo Barbero per Silvana. Mentre a Miró, l'altro protagonista della mostra di Vercelli, è dedicata un'altra mostra che si è appena aperta a Roma, al Chiostro del Bramante, che sarà aperta fino al 10 giugno, intitolata appunto Miró, poesia e luce, curata da Maria Luisa Lax ed è organizzata tra gli altri anche da 24 Ore Cultura, una società del gruppo che edita questa radio. A una delle icone della pittura è dedicata l'opera di uno dei maggiori studiosi francesi d'arte, cioè André Chastel. Il titolo è La Gioconda, l'illustre incompresa. Il libro è pubblicato da Abscondita, tradotto da Bruno Arpaia, 122 pagine, 18,50 euro. La Gioconda è sempre stata al centro dell'interesse degli studiosi e del grande pubblico, ma con atteggiamenti diversi, e se ne trova una sintesi appunto nei titoli dei tre capitoli di questo libro: L'età dell'idolatria, l'età del kitsch e l'età della revisione. Nella prima si moltiplicano copie, imitazioni, ma anche opere su Leonardo che dipinge quel quadro, come per esempio una pittura del 1845 in cui vediamo Leonardo da Vinci davanti alla Gioconda che riceve Raffaello, e il quadro è qui riprodotto assieme a tante altre immagini. La seconda età, quella del kitsch, esplode dopo il furto del 1911, quando il futurismo ammonisce abbasso il tango e i capolavori, e così la Gioconda diventa soprattutto oggetto di interpretazioni irridenti e dissacranti. E poi la revisione, il periodo in cui si prende la distanza da questo capolavoro che, scrive Chastel citando Berenson, è dotata di fascino della figura, certo, ma con un'aria gelida che trattiene l'emozione. Passiamo invece a quello che è considerato uno dei padri dell'arte orientale, in particolare giapponese, Okusai, il pittore vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800, la cui autobiografia romanzata viene presentata nel libro di Bruno Smollards, che è uno scrittore francese, Okusai, dita d'inchiostro, è pubblicato da Barbès, tradotto da Maurizio Ferrara, 182 pagine, 14 euro. Troviamo un Okusai ormai anziano che si avvicina alla perfezione o quella che lui considera tale. Okusai ormai si sente veramente il vecchio pazzo rapito dalla pittura, come poi passerà alla storia, e racconta qui la sua vita partendo dalla fanciullezza, quando si accosta alla pittura e poi all'incisione, e raccontando di una vita tormentata, curiosa, ossessionata dallo sforzo di cogliere l'essenza della natura, per esempio nel caso del Monte Fuji, che è al centro di una sua grande opera, di una sua grande riflessione pittorica, e la quale dedica queste righe che adesso vi propongo. Da ogni parte, o quasi, si può vedere o avvistare il Fuji, un monte senza pari, e a ogni tappa ci indicavano il posto, il Fuji-mi, da dove il panorama è più bello, più famoso. Da ogni angolo visuale, infatti, era una meraviglia rinnovata di continuo. Allora mi mettevo a disegnare a sazietà, fino a ritrovare il Fuji nei miei sogni, a immaginarlo là dove non era, con tutti i colori e persino con riflessi fuori stagione. E scendevo nei burroni, entravo nelle fattorie, attraversavo le risaie. Hanno anche voluto trascinarmi a fare l'ascensione della montagna, ma non sono andato molto lontano. Quanto più ci si avvicina, tanto meno la si vede, e quindi la cosa era priva di interesse, perché bisogna guardare il Fuji e non quello che il Fuji guarda. Domina il mondo, ma il mondo è senza importanza se non c'è più il Fuji. Il Fuji è anche bravo a dare lezioni di estetica. La sera in cui ci fermammo ai suoi piedi, si ergeva maestoso nel tramonto, promettendoci una bella giornata di bozzetti per l'indomani. E il mattino seguente, puff, era scomparso, avvolto in una nebbia che, salendo dall'oceano, si era incollata ai suoi fianchi e non lo aveva lasciato per tutto il giorno. Ma come accostarsi al bello dell'arte? Una risposta affascinante è contenuta nel libro di Roger Scruton, che è un grande filosofo inglese, che si intitola appunto La bellezza, ragione ed esperienza estetica, è pubblicato da Vita e Pensiero, 184 pagine, 16 euro, tradotto da Laura Maiocchi. Parlare di bellezza in tempi di relativismo, in cui quindi ci si astiene dal giudizio e si ritiene che tutto possa essere messo sullo stesso piano, è un azzardo, ma naturalmente Scruton non accetta questo metodo. Scruton vuole rivalutare la critica, il giudizio estetico, e sottolinea come la bellezza sia un valore reale universale, un valore radicato nella nostra natura razionale, e come il senso della bellezza abbia un ruolo indispensabile nel plasmare il mondo umano. Il libro appunto spiega questo presupposto insistendo sul valore dell'arte. L'arte, scrive Scruton, risponde all'enigma dell'esistenza, ci dice perché esistiamo, infondendo nella nostra vita un senso di adeguatezza. Questo è un concetto che poi ha ripreso in un altro libretto pubblicato dopo la pubblicazione in Inghilterra del libro, ma prima della traduzione di cui vi parlo. E l'altro libro di Scruton è Il suicidio dell'Occidente, un'intervista curata da Luigi Iannone e pubblicata da Le Lettere. In questo libro Scruton scrive come il senso della bellezza sia un universale umano che nasce dal bisogno profondo di sentirci a casa nel mondo e anche di trovare i nostri valori riflessi nei nostri ambienti. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Filippo Reggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, sul quale potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.